24. La storia. L'Osservatore Romano da più di 150 anni è il giornale che porta i messaggi del Papa dal centro della cattolicità alle periferie del mondo. Ascoltiamo il direttore Gian Maria Vianna. Siamo un piccolo giornale perché le forze sono esigue, tenendo conto soprattutto che il giornale oggi non è solo il quotidiano, ma è una galassia di edizioni, 7 settimanali e una mensile in diverse lingue, dall'italiano al mensile in lingua polacca, alla versione che viene fatta in India in una lingua del Kerala, il Malayalam. Ha raccontato la nascita e la conclusione dei pontificati. Ha dato voce alle storie di solidarietà verso i poveri e alla difesa dei loro diritti che difficilmente hanno l'onore della prima pagina. C'è questa attenzione al mondo, all'Africa, agli altri continenti, non soltanto nei momenti di emergenza, ma nella quotidianità, che permette, leggendolo, di cogliere un filo, seguire le vicende degli altri paesi, non soltanto di vederle emergere come un fungo in momenti particolarmente tesi, in cui muore qualche capo di Stato, in cui c'è qualche rivoluzione o qualche attentato. Avete sentito Anna Foa? L'Osservatore Romano ha diffuso la parola di 2 milioni di giovani quando si sono stretti vicino al Papa. Ha usato le sue pagine come grida di speranza nella disperazione delle 2 guerre mondiali. Ha superato i muri della guerra fredda. Ce ne parla Monsignor Loris Capovilla. Il problema presentato sotto la luce del Vangelo, non solo la pura e nuda cronaca, ma il commento che può essere anche di dissenso, ma un dissenso che tende alla comprensione, alla pazienza, all'amore in ogni caso. Ha fatto sentire la voce della Chiesa nelle questioni etiche e sociali, dando eco mondiale alle voci ignorate dalla grande informazione. L'opinione di un editorialista dell'Osservatore viene spesso interpretata come opinione del Papa. Naturalmente questo non è, perché il Papa, una delle altre novità che il Papa ha chiesto, è quella che ci fosse aperto il dibattito intellettuale. Attraverso i suoi commenti è una guida, una bussola per cominciare a capire meglio quello che il Papa ci dice. Una bussola per capire meglio il pensiero del pontefice, secondo Andrea Riccardi, ma anche una guida spirituale e politica in grado di orientare e di informare i suoi lettori. È l'Osservatore Romano. Roma, 1 luglio 1861. 100 giorni dopo la proclamazione del Regno d'Italia, un avvocato di Forlì, Nicola Zanchini, e un giornalista di Bologna, Giuseppe Bastia, con l'approvazione di Papa Pio IX, grazie a finanziamenti privati, fondano l'Osservatore Romano. Ascoltiamo ancora il direttore, Gian Maria Vianna. Non è un caso che il giornale nasca per iniziativa privata di 2, diciamo così, profughi politici. Il progetto voleva che il giornale si chiamasse L'Amico della Verità. Poi invece si preferì prendere il titolo di un altro giornale che nel frattempo era morto e che si chiamava appunto L'Osservatore Romano. Una scelta, diciamo, meno impegnativa. Certo, è chiaro che la verità resta l'obiettivo del quotidiano della Santa Sede, come di qualsiasi altro giornale, vorrei dire poi. Le sue finalità costitutive sono smascherare e confutare le calunnie contro Roma e il pontificato romano, far noto quanto avviene alla giornata di Roma e fuori, ricordare i principi connessi alla religione cattolica e quelli della giustizia. L'Osservatore Romano, nei suoi primi 10 anni di vita, non è il giornale ufficiale della Curia o del governo romano. È un giornale che rispecchia le opinioni, i desideri dei cattolici romani e del governo del Papa. Nasce con un intento polemico, difensivo, che viene espresso molto bene da 2 motti latini: uni cuique sum, un principio di giustizia, vuol dire a ciascuno il suo; il secondo, non prevalebunt, non prevarranno, il male non avrà l'ultima parola, quindi una parola di speranza. Queste sono, diciamo, le linee editoriali. In linea editoriale che vengono applicate con moderazione. Teniamo presente che l'Osservatore Romano in quell'epoca scriveva cose molto cattive sull'Italia, sui protagonisti del Risorgimento, perché era a rischio lo Stato Pontificio. Quando morì Cavour, un mese dopo, se non ricordo male, scrisse delle parole molto alte e molto belle. Quando un complesso sì raro esiste e ad un tratto sembra dissolversi, allora è un nostro bene, è un patrimonio comune ad un'intera generazione che si impoverisce. Descrisse il personaggio come personaggio, come persona di grande livello, furbo, scaltro, intelligente, che perseguiva lo scopo era l'unità d'Italia, con tutti i mezzi. Però poi disse che con lui si perdeva un patrimonio ed un bene comune a più generazioni, alle generazioni successive. Quindi l'Osservatore Romano riuscì ad elevarsi in maniera molto bella, diciamo, secondo il livello spirituale della Chiesa. Avete sentito lo storico Carlo Cardia. Il 20 settembre del 1870, con la presa di Roma, l'Osservatore Romano chiude e non esce per un mese. Lo Stato Pontificio non esiste più e il giornale è soggetto alla legge italiana. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Nel 1870, dopo 15 secoli, cade il potere temporale del Papa, ma non è ancora risolto il problema dell'indipendenza del papato. Ascoltiamo lo storico Giorgio Rumi. Forse aveva ragione Montini, Papa Paolo VI, a dire 100 anni dopo che fu un evento provvidenziale. Provvidenziale perché liberò la Chiesa da una serie di obblighi e di funzioni che non le spettano, cioè quella di governare i popoli. C'erano delle resistenze, delle insoddisfazioni, quella per esempio di molti cattolici che si trovavano col cuore diviso tra fede religiosa e appartenenza nazionale, cioè tra religione e patria. E fu una storia che andò avanti fino alla Prima Guerra Mondiale e anche dopo. L'Osservatore, critico sulle modalità di unificazione, difende i diritti di libertà del pontefice. Gli attuali rivolgimenti d'Italia non hanno altro scopo che di abbattere, se fosse possibile, la religione. Ma alla morte del re galantuomo, l'Osservatore afferma: i cattolici non avranno che una sola parola dinanzi alla tomba di Vittorio Emanuele, quella del compianto e della pace. Dopo i gravissimi avvenimenti di cui è stata teatro questa eterna città, la Santa Sede decide di acquisire direttamente la proprietà del giornale. Questo avviene dopo il 1885. Siamo quindi nell'ultimo quindicennio del secolo e progressivamente il giornale, per questo, per il controllo diretto da parte della Santa Sede, acquisisce maggiore autorevolezza. Teniamo conto anche di un'altra cosa, che in questo periodo la Santa Sede, proprio per la perdita del potere temporale, va espandendo la sua presenza internazionale, mondiale. Dopo la firma del Trattato del Laterano il 4 novembre 1929, la sede dell'Osservatore Romano si trasferisce dentro la città del Vaticano. Da quei lontani esordi ad oggi, dopo 12 pontificati e 10 direzioni, il giornale continua a raccontare le trame della storia, proponendo giudizi politici e mettendo al primo posto l'informazione internazionale. Per festeggiare il 150° anniversario della sua fondazione, Papa Benedetto XVI, accompagnato dal cardinale Tarcisio Bertone, visita per la prima volta la redazione. Il Papa ragiona da vero editore che visita un giornale dando le sue riflessioni. L'Osservatore Romano è soprattutto un grande osservatorio, come dice il nome, e offre realmente un'informazione universale che realmente vede il mondo. E non solo una parte, non è solo informazione, ma realmente formazione culturale. E sono stato realmente curioso da molto tempo di vedere come si fa oggi un giornale, dove nasce il giornale e conosce almeno per il momento le persone che fanno questo. Una visita di Benedetto XVI al suo giornale, cordiale e affettuosa, ma non certo scontata. Il Papa vuole conoscere quali sono i suoi ingranaggi più sconosciuti, perché il Papa lo sa bene il peso politico e storico, oltre che umano e teologico, delle parole del successore di Pietro è importante, soprattutto se divulgate adeguatamente e interpretate correttamente. In sostanza è stato questo da sempre il compito dell'Osservatore Romano, a partire ad esempio dai tragici momenti della Prima Guerra Mondiale, quando Benedetto XV sente l'urgenza di un messaggio forte e inequivocabile. Nella famosa nota alle Nazioni del 1 agosto 1917, pubblicata il 17 agosto, Papa Benedetto XV parla sull'Osservatore Romano della Grande Guerra come inutile strage. Questa lotta tremenda, ogni giorno di più, apparisce inutile strage. La condanna della Prima Guerra Mondiale, che ha portato alla morte milioni di uomini, non è accolta, non solo dai governi in lotta, ma anche da molti cattolici. È stata una scelta che ha riflesso la posizione della Santa Sede, che non poteva schierarsi da una parte o dall'altra. Il Papa resta una voce isolata, viene considerato dai tedeschi filo francese, dai francesi filo tedesco. Papa Benedetto XV, convinto tessitore di una strategia per la pace, mette a punto il criterio di imparzialità. La Santa Sede intende rimanere al di sopra delle parti, fuori dagli schieramenti. Benedetto XV nomina nel 1920 il direttore dell'Osservatore Romano per eccellenza, Giuseppe Dalla Torre, esponente del Movimento Cattolico, che dirigerà il giornale per un quarantennio, un fatto eccezionale. Ascoltiamo ancora Gianmaria Vian e Anna Foa. Lui attraversa la stagione più buia del Novecento, cioè il ventennio che intercorre tra le due guerre mondiali, soprattutto la crescita dei totalitarismi, del comunismo sovietico, del fascismo, del nazismo, la persecuzione contro gli ebrei, la Shoah. Questa è la stagione d'oro dell'Osservatore. Si trattava di un giornale non italiano, quindi dell'unico giornale a partire da una certa data in poi, quando la dittatura si afferma in maniera capillare, l'unico giornale che non avesse le veline dal ministero fascista, ma che potesse esprimersi liberamente, soprattutto negli anni fra il 38 e il 40, ha rappresentato una specie di faro di libertà. È il periodo di massima tiratura del giornale, oltre 60.000 copie con punte di 100.000. Difficile è l'intervento che Pio XII è costretto a compiere il 29 giugno 1931 sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, con l'enciclica «Non abbiamo bisogno», nei confronti del governo italiano che, sotto la spinta di estremisti fascisti, ha sciolto le associazioni giovanili universitarie dell'Azione Cattolica. Non ci stancheremo neanche nell'avvenire di rinfacciare francamente alle autorità responsabili l'illegalità delle misure violente prese finora. Sul comunismo abbiamo un'attenzione dell'Osservatore Romano che non hanno altri. E prima di altri parla del comunismo addirittura il 7 luglio del 17, quindi prima della rivoluzione, parlando di Lenin che torna a Mosca. È singolare. Anche perché all'epoca si conoscevano molto poco queste cose, fra l'altro sbagliando il nome perché scrisse Lenine. Devo dire che in Vaticano non c'era nostalgia per il regime degli zar, che aveva dato tanto poco spazio alla libertà religiosa, ma c'era grande preoccupazione davanti alle violenze, alla rivoluzione, alla fame, anche perché a Roma, nella Chiesa, in Vaticano si pensa che guerra e rivoluzione non lasciano mai il mondo migliore di come l'hanno trovato. Nel 1920 l'Osservatore Romano diceva: guardate che il comunismo, ciò che sta avvenendo in Russia, non è un comunismo nazionale che riguardi solo la Russia, ma ha pretese internazionali e mondiali. Naturalmente questo perché indovinava questi giudizi? Indovinava perché aveva collegamenti con tutto il mondo. Non erano i giornalisti di Roma dell'osservatore che davano questi giudizi. Questo è il punto. Erano vescovi, cardinali dove c'erano, fedeli, uomini cattolici importanti che stavano in tutto il mondo e che quindi proiettavano, informavano l'osservatore con notizie e giudizi di prima mano. In Germania l'osservatore romano continua a seguire la situazione con un'attenzione e una forza unica fra i giornali in lingua italiana. L'osservatore romano parla per la prima volta del nazismo nel 1929, quando Hitler era uno sconosciuto. Dal 1929 si fanno sempre più frequenti le articoli, notizie, commenti su ciò che avveniva in Germania, prima ancora del 1933, quando Hitler prende il potere. E chi è che fa molte di queste annotazioni? Guido Gonella. Con la storia dell'Osservatore Romano riprendiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. È il 1929, l'Europa sta per entrare in una delle fasi più buie della sua storia e il giornale del Vaticano diventa una delle prime voci di allarme e di denuncia contro il totalitarismo. Ed è allora che il giornalista e poi esponente della Democrazia Cristiana Guido Gonella inizia la sua collaborazione con l'Osservatore Romano. La rubrica Acta Diurna esce per la prima volta il 6 maggio 1933. Guido Gonella affronta argomenti di politica internazionale servendosi di articoli, corrispondenze, dibattiti sui giornali e riviste straniere. Ce ne parla ancora lo storico Franco Cardia. Ci sono queste cose di Gonella bellissime, qui dice: guardate che il fondamento del nazismo è il paganesimo e il razzismo. Il razzismo inteso in senso generale, cioè la elevazione del popolo razza a popolo guida, no? E quindi la condanna di tutte le altre razze, a cominciare dagli ebrei, ma tutti gli altri, anche i popoli di colore, no? Dal 1934 l'Osservatore Romano insiste in polemiche sempre più forti. Perché? Perché i vescovi in Germania protestano contro tutta una serie di abusi contro la Chiesa e contro altri. La Chiesa protesta più per gli abusi contro se stessa, però diciamo che questo è umano. Però contro il razzismo protesta sempre. I nazisti sequestravano le lettere pastorali dei vescovi tedeschi. E allora cosa accadeva? Accadeva che dal pulpito delle diocesi, delle grandi diocesi tedesche, veniva letto l'Osservatore Romano. Venivano letto questi commenti, a volte brevi, a volte meno brevi. Il 14 marzo 1937, Pio XI firma l'enciclica Mit Brennender Sorge, scritta in tedesco e pubblicata in prima pagina sull'Osservatore Romano. Condanna in modo totale la... come si può dire, statolatria, il razzismo, l'antisemitismo e il paganesimo del nazismo. Non si poteva distribuire questa enciclica ovviamente in Germania. Quando Hitler visita Roma nel maggio 1938, due trafiletti dell'Osservatore Romano fanno il giro del mondo. Pio XI chiude i musei vaticani e si reca a Castel Gandolfo. Quando Hitler venne a Roma, l'unico che si accorse della ferita fu il Papa, che ovviamente non ci pensava minimamente a riceverlo, se ne andò a Castel Gandolfo. Fu notata questa cosa e dice: ah, ma il Papa se ne andrà a Castel Gandolfo per non ricevere Hitler. Il giornale scrive in prima pagina un commento ai limiti della provocazione. Non è questione di piccola diplomazia. Il Papa è andato a Castel Gandolfo perché lì c'è l'aria buona. L'aria di qui gli fa male. È una cosa che io trovo bellissima. Dove poi si dice è forte, no? L'osservazione. Quello fu il momento di maggiore chiusura nei confronti, proprio quando Hitler otteneva qui quei successi, francamente, il popolo italiano non gli avrebbe mai dato da solo. Quindi è stata una a seguire la vicenda del nazismo, cogliendo in anticipo queste cose che poi sono servite, sono state a base della condanna senza se e senza ma da parte della Chiesa. Nel 1938, l'anno dell'adozione delle leggi razziali in Italia, l'Osservatore Romano pubblica diversi interventi di personalità ecclesiastiche che si schierano apertamente contro il razzismo nazista. Ce ne parla Anna Foa. Ci sono stati dei veri e propri attacchi squadristici a chi lo comprava, con botte, e ci sono stati anche dei tentativi di rapire il direttore di allora della Torre. Davamo rifugio a molti ebrei ed era considerato un covo di antifascisti da parte del regime, quindi ha questa caratterizzazione di giornale di opposizione. Nell'articolo del 18 novembre 1938, le dimostrazioni contro l'arcivescovado a Monaco, molti prelati tedeschi difendono apertamente gli ebrei, tra questi il vescovo di Monaco von Galen, che viene attaccato dai nazisti per le sue prediche in cui ribadisce la centralità della dignità dell'uomo. Nei momenti duri della storia italiana, dunque, l'Osservatore Romano è stato un giornale di opposizione, come ricorda anche la storica Anna Foa. Ma un'opposizione particolare per due motivi fondamentali. Il primo, le tesi espresse dal giornale della Santa Sede si configuravano come una opposizione al regime, ma certo all'interno di un codice di regole politiche e diplomatiche imposte dalla Segreteria di Stato. E punto numero due, l'opposizione dell'Osservatore Romano è stata in quegli anni non solo critica, ma anche di prospettiva. Lo dimostra il racconto di quegli eventi fatto per noi dal segretario di Papa Giovanni XXIII, Monsignor Loris Capovilla. Il 2 settembre del 1939, il giorno prima, i tedeschi erano entrati in Polonia e scoppiava questa conflagrazione che sarebbe stata mondiale e micidiale. Ed ero curioso di leggere che cosa ha scritto l'Osservatore Romano, perché noi prendevamo ispirazione per pensare, anche i giovani ragazzi cattolici dell'Osservatore Romano. Noi auspichiamo dalla misericordia di Dio e dalla buona volontà degli uomini un lavoro di pacificazione che non dispere di sé, non si interrompa e si fiacchi, ma continui e riprenda più intenso, quanto più non ci minaccia ormai soltanto il pericolo, ma la sventura ci ha colpiti. Quel corsivo dava l'indirizzo al cristiano. Che cosa dobbiamo fare in questo momento? Come comportarci? Il linguaggio di pace non cancellato, almeno nella stampa cattolica. L'Osservatore Romano, durante la Seconda Guerra Mondiale, si pronuncia con forza a favore della pace ed è il fedele portavoce di Pio XII. Trascrive in prima pagina tutti i suoi radiomessaggi. Noi indirizzammo il 24 agosto 1939 ai governanti e ai popoli un caldo appello e una supplichevole ammonizione. Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. La nostra voce giunse agli orecchi, ma non illuminò gli intelletti. Con la liberazione di Roma del 4 giugno 1944, Pio XII, per il suo ruolo avuto nella salvezza della città, viene acclamato dalla popolazione romana che si riversa spontaneamente nelle strade. La neutralità della Santa Sede nei confronti della scelta in Italia nel 1946 tra monarchia e repubblica è evidenziata nelle pagine dell'Osservatore Romano. Quando risulta chiaro che ha vinto la Repubblica, il giornale, il 7 giugno 1946, scrive questo commento. Una davvero dunque la patria, anche di prove, di dolore, di speranze e di doveri. Una dunque deve essere di fede e di cuore. È ora il compito della Repubblica. Edizione speciale del notiziario CBS. Per il momento non abbiamo notizie di scontri tra le navi sovietiche e quelle statunitensi. Non sappiamo dire con certezza se e quando avverrà. È iniziata la Guerra Fredda. Quando Rada Khrushchev si reca a Roma insieme al marito, Alexei Ajubei, il Vaticano sembra imporsi come mediatore tra i due blocchi. Ce ne parlano Monsignor Loris Capovilla e ancora Andrea Riccardi. 7 marzo 1963. Tutta Europa, cioè il comitato che doveva assegnare il premio della pace Eugenio Balzan fu concorde Oriente e Occidente sulla persona di Papa Giovanni. Siccome c'era anche la stampa sovietica, dice, come fare? Perché questi desiderano essere presenti, ma in Vaticano non vengono in genere. Non vengono. Allora si è fatta una conferenza stampa per la stampa estera. Poi il Papa ha detto, questi due signori vogliono vedere il Papa, vengano con me. C'è stato un incontro. Un incontro che è stato un... come parlare? Una conversazione al caminetto. Hanno parlato delle varie cose. Il Lajubei ha detto che il suo superiore, il Crucio, suo suocero poi tra le altre, no? Dice, domandava, possiamo prendere qualche rapporto con la Santa Sede? Possiamo, invece che ricorrere al governo italiano o al governo americano? Ci fu questo contatto, che fu un primo tentativo di disgelo. Non parve allora alla segreteria di Stato darne notizia sul giornale. Il contesto politico e ideologico del mondo sta cambiando e la prospettiva editoriale dell'Osservatore Romano si adegua. Sul soglio di Pietro non c'è più Giovanni XXIII, ma Paolo VI. Nuove parole d'ordine si sono diffuse da tempo per la Curia. Nuove esigenze il mondo chiede al cattolicesimo romano. Diverse prospettive sembrano occupare gli interessi delle popolazioni del pianeta e il pontefice di Roma non si mostra insensibile a questo vento di novità. Dal gennaio del 1964 Paolo VI, a sorpresa si può dire, viaggia in Terra Santa. Normalmente il giornale segue il Papa, il direttore del giornale lo accompagna con un inviato e con i suoi fotografi ed è naturalmente un punto di vista privilegiato. Arturo Mari, classe 1940, un mito. È stato il fotocronista dell'Osservatore Romano per ben 53 anni. Nessuno come lui ha potuto vedere e seguire da vicino la vita di sei pontefici, da Papa Pio XII a Papa Benedetto XVI. Ascoltiamolo. Non mi posso dimenticare il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando a San Paolo, nella Basilica di San Paolo, annunciò il Concilio Ecumenico Vaticano II. Scrive oggi Giulia Galeotti sull'Osservatore Romano. I moderni legami tra i media e la Chiesa nascono con il Vaticano II, amatissimo dalla stampa. La figura del vaticanista nasce di fatto in questa fase. Concilio storico anche nella misura in cui giunse al mondo non solo attraverso la voce della stessa Chiesa, ma anche grazie al ruolo svolto dai media. Io credo che Giovanni Paolo II rappresenta una grande novità, una novità a cui l'Osservatore Romano dà grande spazio. Rappresenta una novità perché mostra come dalla storia sofferente dell'Est, della Polonia, venga un uomo, un Papa, un testimone che incarna una Chiesa di popolo. Sia lodato Gesù Cristo, non si sente ancora. Si dice che nessuno preavvertì il segretario di Stato quando il 23 dicembre 1978 l'Osservatore Romano annuncia che Papa Giovanni Paolo II sarebbe andato a Puebla, in Messico. E quando il 2 gennaio 1979 il Papa arriva a Città del Messico, l'attenzione dei media è altissima. I vescovi, senza tonache per legislazione laica, sono in cravatta. La bianca veste del Papa è già una rottura, racconta l'Osservatore Romano. In questo viaggio del Papa non ci sono incontri di vertice, non si ha notizia di colloqui politici riservati, ed è naturale, giacché il Papa è soprattutto il pastore universale, cioè colui che è di casa nel mondo. Mix 24, la storia. Gianfranco Sviderkowski, lei è stato vice direttore dell'Osservatore Romano durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Qual è la maggiore differenza tra allora ed oggi nella linea editoriale del giornale? C'era il problema, invece, la tendenza a non intervenire allora, perché allora c'era tanto la censura. comunque faccio un discorso senza polemiche, i tempi erano quelli, la situazione era quella e bisognava accettarla. Io non l'ho accettata, dopo 2 anni per difendere la mia libertà di professionista e di laico credente me ne sono andato. Però era così, il mondo era così, quindi più che altro si tendeva a non parlare, perché per esempio io dopo un mese che ero vice direttore del Senato Romano, ero i 3 anni dell'accordo di Danzica, la Polonia nel frattempo era stata in qualche modo occupata dal generale Jaruzelski, feci questo articolo e venni attaccato per questo, per cui subito si impaurirono i segretari di Stato, c'erano paure, mentre invece c'era la possibilità, secondo me, di fare degli interventi. Per quindi cui... forse adesso c'è più libertà o comunque... Sì, sicuramente c'è più libertà. Più libertà anche perché il mondo in qualche modo offre anche la possibilità di essere più liberi, anche diciamo, allora per esempio la Cina era un tabù, non si poteva mai parlarne, non si poteva proprio. Adesso invece se ne parla abbastanza. Bentrovati su Mix 24 con Marina Milone, stiamo raccontando la storia dell'Osservatore Romano. Ascoltiamo Mario Agnes, direttore dell'Osservatore Romano dal 1984 al 2007, e Andrea Riccardi. Il Papa aveva indetto una giornata di digiuno e di preghiera per la pace, dicendo che mai, mai più la guerra, mai più... Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la Seconda Guerra Mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare e di dire mai più la guerra. Io pensai che fosse in quel momento... Il giornale poteva uscire con una sola parola, anche se poi non il giornale, la prima pagina, con una sola parola, mai. Mai più la guerra è scritto, diciamo, a titoli cubitali, a caratteri cubitali sull'Osservatore Romano. Siamo all'epoca della guerra del Golfo, in quel momento l'Osservatore Romano è una voce del Papa, il Papa è per la pace. Il mai fece scalpore, in sostanza, e questo lo ricordo proprio perché rimasero un po' perplessi anche i miei collaboratori, ma poi pensandoci dicevano sì, ci sarà una cosa nuova, ma vuol dire qualche cosa di più. L'Osservatore Romano non è un megafono, ma è un intelligente interprete e testimone della voce del pensiero del Papa. All'inizio del 1995 il Papa lancia un messaggio di pace proprio sulla donna. Il 1994 era stato un anno tragico per il genocidio in Ruanda, uno dei paesi più cattolici dell'Africa, mentre continuava la guerra in Bosnia Erzegovina, nel cuore dell'Europa. Per aiutare la pace, Giovanni Paolo II propone alle donne di divenire donne di pace e scrive sull'Osservatore Romano. Chiedo pertanto alle donne di schierarsi tutte e sempre dalla parte della vita e chiedo al tempo stesso a tutti di aiutare le donne che soffrono e in particolare i bambini, specialmente quelli segnati dal trauma doloroso di esperienze belliche. Attribuisce un grande ruolo ad alcune donne nella Chiesa, riconoscendo il valore della loro azione carismatica. Si pensi a Madre Teresa di Calcutta, che beatifica nel 2003, o a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolarini. Scrive Lucetta Scaraffia nel suo editoriale. Mai si era visto prima, infatti, un Papa abbracciare senza timore le sue amiche, manifestando loro affetto fraterno. Caro Wojtyła ha avuto collaboratrici donne, cioè ha lavorato con delle donne, ha avuto accolto, diciamo così, la collaborazione, l'influenza di femminile. C'è stata non solo una presa di posizione teorica di Wojtyła rispetto alle donne, ma una pratica di ascolto del pensiero femminile durante tutta la sua vita. Gianfranco Swiderkowski, oggi con un Papa che comunica in maniera così diretta, il giornale del Vaticano è spiazzato. È la risposta che l'avrei dato se lei mi avesse chiesto se l'Osservatore Romano serve o meno oggi. In effetti con un Papa che parla così direttamente forse non c'è più bisogno di megafoni o di amplificazioni o di persone che debbono, di giornali che debbono interpretarlo. Comunque l'Osservatore Romano c'ha sempre il suo ruolo in quanto è l'organo ufficiale della Santa Sede, ma c'ha ragione lei. Ma quindi è cambiata anche l'edizione del giornale con Papa Francesco? Ne parlo dall'esterno, perché io certo, sono stato vice direttore molti anni fa, in un periodo che era molto molto molto diverso da questo, ed è un periodo molto più difficile, nel senso che allora, tanto capitai che c'era la redazione che era divisa in due, quindi mi toccava mettere già riconciliazione interna. Poi c'era il problema di una curia che allora era molto più clericale, era molto più burocratica, era difficile, piena, ogni volta il lavoro era pieno di censure, e poi c'era un mondo diverso, c'era ancora il muro, c'era un papa polacco che era considerato un destabilizzatore. Adesso è molto diversa la situazione, e quindi un giornale cerca forse di adeguarsi, è un po' più difficile. Più difficile, ma il Papa lo utilizza? Boh, non mi dà questa impressione. Il Papa è molto, molto, è uno che parla in maniera molto diretta, molto spiccia. Va per sé, diciamo. Lo fa in proprio, fa il Papa in proprio, non c'è bisogno di altri mezzi. E in altri tempi invece era forse diverso, se veniva usato il giornale anche per riproporre un problema, per fare una polemica, ma adesso si è visto in questi giorni per la storia dell'Armenia, del genocidio. Esatto, stavo per arrivare. Rispetto alla questione armena, dove le parole del Papa hanno creato praticamente un incidente diplomatico con la Turchia, sull'Osservatore Romano non è uscita una riga, una strategia precisa? Sì, sì, è sicuramente così, ed è la strategia solita, ma non è tanto, io penso, che sia della direzione, quanto invece degli ordini dall'alto. Che quindi dal pontefice, deciso dal pontefice? No, il Papa no. Forse però, a parer mio, la diplomazia vaticana ci poteva pensare prima di suggerire al Papa se fare o no direttamente quel discorso, perché Giovanni Paolo II l'aveva fatto in una dichiarazione con l'esponente religioso armeno. Questa volta invece più si va avanti e più, diciamo, ci sono evidentemente delle reazioni emotive, poi tenendo conto sotto poi che c'era il problema di una possibile reazione musulmana, bisogna starci forse più attenti. Gianfranco Sviderkowski, nel mondo di oggi c'è una cosa a cui l'Osservatore Romano riserva più attenzione? Perlomeno è la cifra del nuovo direttore di Vianda, quando lui è direttore, e c'è, ne famo soltanto molto un discorso, e sulla cultura, ha fatto molto aperto un discorso sulla cultura, ha fatto scrivere persone di valore, quindi creando un laboratorio intellettuale che possa avere anche una risonanza internazionale. Poi ha dato molto risalto alla partecipazione e alla collaborazione delle donne, questo è un merito suo, perché quando ci provai io, una collaboratrice che scrisse un articolo su Maria Teresa in prima pagina, poi chiesi, era talmente brava che disse la assumiamo, e invece non venne assunta perché allora c'era quasi ancora il operava la misoginia, così, e quindi anche sul piano delle donne, e poi sul piano anche dei rapporti con le altre religioni, perché per esempio ci sono anche delle firme ebraiche sul giornale. Quindi un giornale più aperto, diciamo. Molto più aperto, sicuramente.